88. Maccheroni con le sarde alla siciliana. Di questa minestra vo' debitore a una vedova e spiritosa signora, il cui marito siciliano si divertiva a manipolare alcuni piatti del suo paese, fra i quali il nasello alla palermitana e il pesce a taglio in umido. Maccheroni lunghi alla napoletana, grammi 500. Sarde fresche, grammi 500, acciughe salate numero 6, finocchio selvatico, detto finocchio novellino, grammi 300, olio quanto basta. Alle sarde levate la testa, la coda e la spina, dividendole in due parti, infarinatele, friggetele, salatele alquanto e mettetele da parte. I finocchi lessateli, spremeteli dall'acqua, tritateli minuti e metteteli da parte. I maccheroni, dopo averli cotti così interi nell'acqua salata, scolateli bene e mettete anche questi da parte. Ponete al fuoco in un tegame dell'olio in abbondanza e in esso disfate le 6 acciughe, ben inteso dopo averle nettate e tolta la spina. Versate in questa salsa i finocchi, condeteli con poco sale e pepe e fateli bollire per 10 minuti con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Ora che avete tutto in pronto, prendete un piatto che regga al fuoco o una teglia e condite i maccheroni a suolo con le sarde e con l'acciugata di finocchi in modo che facciano la colma. Metteteli a rosolare tra due fuochi e serviteli caldi. Crederei dovessero bastare per 6 o 7 persone.